Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo al primo appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, non con il presidente Carlo Garofolini, che è meritatamente in vacanza, ma con l'addetto stampa dell'Adico, Gianluca Codognato, al telefono con noi. Benvenuto a Blu Radio Veneto. Grazie, buongiorno. Parliamo, Gianluca, di un caso che è strettamente legato al Comune di Venezia, ma che potrebbe così far scuola anche per altri. Il caso specifico riguarda le tariffe cimiteriali che il commissario governativo, che è stato in carica per un anno appunto dopo gli scandali del Mose, commissario ha deciso di aumentare le tariffe dei servizi cimiteriali, e aumentarle non di poco, dobbiamo dire. Sì, tra l'altro bisogna dire sì che questa è stata poi l'operazione da delibera del commissario Zappalorto del 22 gennaio, però già degli aumenti c'erano stati nell'anno precedente. E diciamo che appunto, sommando questi aumenti, ce ne sono anche veramente di clamorosi, crediamo che si siano veramente messi in difficoltà molte famiglie che proprio in questo periodo avevano bisogno di tutto tranne di doversi trovare anche con degli aumenti che arrivano anche al 570%, e per quanto riguarda le tariffe appunto cimiteriali. Ecco, quindi, tra le poche certezze, anche forse l'unica certezza della vita, è che bisogna morire, quindi per i servizi cimiteriali bisogna passare, e i parenti che sopravvivono ovviamente. Dicevi di questo aumento clamoroso, ma possiamo anche elencarne qualcuno, insomma. Credo che i casi maggiori siano esumazione o cremazione, giusto? Sono tra i servizi più richiesti. Sì, allora, appunto, noi abbiamo rilevato soprattutto questi due riti, diciamo, e riti, in realtà poi l'esumazione in alcuni casi, anzi dopo 10 anni, diventa obbligatoria quando c'è un defunto appunto in campo comune. E ecco, diciamo quindi che cremazione e esumazione hanno subito dei ritocchi in su clamorosi, direi, soprattutto l'esumazione. Però partirei dalla cremazione, perché in realtà è un rito che ormai riguarda praticamente un defunto su due, ormai ha avuto uno sviluppo incredibile, e appunto noi abbiamo registrato degli aumenti del 25%, quindi se nel 2014 pagavamo 480 euro, adesso siamo arrivati a 604 euro, però c'erano stati anche degli aumenti nel 2014 rispetto al 2013. L'esumazione, che come dicevo prima, in alcuni casi, in molti casi, diventa obbligatoria dopo 10 anni in cui sia proprio caro in campo comune, è aumentata del 570%, cioè l'altro anno la pagavamo 50 euro, adesso arriviamo a pagarla appunto 300-400 euro, insomma sono degli aumenti veramente spropositati. Ecco, questo per ogni singola esumazione, quindi nel caso i defunti fossero due defunti anche a distanza magari di poco tempo, chiaramente si moltiplica. Sì, esattamente. E poi appunto, come dicevo, noi infatti partiamo un po' da questo. Noi abbiamo avuto una nostra iscritta, insomma, che si è presentata da noi con il conto di Veritas, il conto per il marito morto appunto 12-13 anni fa, e nel quale gli proponevano, gli facevano due proposte, una da 700 euro e una da 1120 euro, per appunto esumare obbligatoriamente il corpo del proprio marito. E lei era disperata, perché oggettivamente una persona che prende una pensione da 1000 euro, pensare di dover tirare fuori così da un momento all'altro 600 o addirittura 1000 euro, chiaramente è una cosa impensabile appunto. Hai citato Veritas perché è l'azienda che per il Comune di Venezia gestisce appunto i servizi cimiteriali. Allora, visti questi aumenti, voi avete preso carta e penna per preparare un modulo, una raccolta firme. Sì, abbiamo avviato una raccolta firme, l'abbiamo avviata adesso forse in un periodo del periodo estivo, perché appunto abbiamo avuto questa segnalazione più clamorosa, diciamo, in questo periodo. Però devo dire che, non dico che abbiamo la coda fuori, però stanno arrivando veramente tante persone nella nostra sede a firmare la petizione, che è molto sentita, evidentemente. Ci aspettiamo un boom a settembre, ma già adesso notiamo veramente che c'è un via vai continuo, molta gente ci chiama per raggiungersi nella nostra sede, non è scontato, soprattutto l'altra settimana quando avevamo 40 gradi all'ombra, e quella gente, persone anche anziane, che arrivano nella nostra sede a firmare una petizione che sentono molto, ecco. Quindi diciamo che noi adesso a fine settembre speriamo di aver raccolto un buon numero di firme, e le presenteremo, sperando bene, al sindaco Brugnaro. Ecco, avete un obiettivo, un minimo che vi siete dati per presentare poi le firme? Ma noi non siamo partiti con un obiettivo, io dico sicuramente ne vorremmo alcune centinaia, sarebbe bello arrivare anche a un 500 firme, ripeto, nell'ambito almeno fino a fine settembre. Valuteremo se poi andare avanti, perché temiamo che sia in programma un nuovo aumento, comunque a gennaio 2016, in programma un ennesimo aumento che veramente porterebbe le tariffe a... Certo, sulle cose appunto sicure, quindi sulla benzina e appunto su questi servizi cimiteriali, poi ci si va appunto a spingere sull'acceleratore degli aumenti, tra l'altro in un periodo piuttosto difficile. Lo è per il comune, perché ha decine di milioni di rosso, però ovviamente magari non sono i cittadini a dover ripagare questi debiti. Ricordiamo allora la sede di via Volturno 33 a Mestre per questa raccolta firme, che si può fare appunto, ovviamente, perché bisogna firmare, solo in forma fisica, quindi recandosi verso i vostri uffici. Sì, in questo momento raccogliamo le firme in ufficio, stiamo valutando, e lo faremo sicuramente, di presentarci anche in altre zone, probabilmente anche dalle parti del cimitero, per raccogliere altre firme senza che necessariamente le persone siano obbligate a raggiungere la nostra sede. E quindi sicuramente ci sposteremo anche oltre che dalla nostra sede, anche in altre zone della città, per raccogliere delle firme che penso veramente, per una petizione che penso sia veramente molto sentita. E speriamo possa fare da scuola magari anche per altri comuni, dove anche in maniera magari più silenziosa gli aumenti comunque ci sono stati. Fatecelo sapere, o fatelo sapere all'Adico, che comunque anche al di fuori del confine del comune di Venezia potrà intervenire, e basta rivolgersi a associazionedifesaconsumatori.it. Ringraziamo Gianluca Codognato per questo approfondimento. Tra un paio di giorni sentiamo un'altra voce per un'altra vicenda che è di stagione. Grazie Gianluca, buona giornata. Grazie, altrettanto. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.